Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. English Bit di Giulia Crivelli. A point. Watershed for Wall Street banks as Citi appoints first female chief executive. Tutti i quotidiani economici del mondo, compreso il Sole 24 Ore, hanno messo la notizia in prima pagina. Il titolo citato è del Financial Times, uno spartiacque per le grandi banche americane. Citi nomina il primo amministratore delegato donna della sua storia. La prima parola che ci interessa è watershed, che come in italiano può essere usata in senso figurato. The middle decades of the 19th century marked a watershed in Russia's history. I decenni centrali del XIX secolo furono uno spartiacque della storia russa. Nel Regno Unito poi si usa per la programmazione televisiva. The 9 o'clock watershed is meant to protect children. La fascia oraria protetta dalle 9 è nata per impedire ai bambini di vedere programmi non adatti a loro, diremo in italiano. Tornando al titolo di Financial Times, notiamo il verbo to appoint, regolare. To appoint, appointed, appointed. In parte è un false friend, perché appointment è in effetti l'equivalente del nostro appuntamento. I have got a dental appointment at 3 o'clock. Ho un appuntamento dal dentista alle 3 del pomeriggio. Viewing the apartment is possible only by appointment. L'appartamento si può vedere solo su appuntamento. She made an appointment for her son to see the doctor. Fissò un appuntamento col medico per conto di suo figlio. Però, tornando al verbo usato dal quotidiano britannico, appointment significa anche nomina. His appointment as principal shocked many of his close friends and co-workers. Il fatto che fosse stato scelto come capo sorprese molti suoi amici e colleghi. Ed eccoci al verbo. They have appointed a new head teacher at my daughter's school. Hanno appena nominato un nuovo preside alla scuola di mia figlia. They appointed him as captain of the English team. Lo hanno appena scelto come capitano della nazionale inglese. A lawyer was appointed to represent the child. Fu scelto un avvocato per rappresentare il bambino. Leggera variante è appointee, che indica la nomina di una persona quando manca ancora del tempo all'entrata ufficiale nel ruolo. Riprendendo la nomina di Citi, notiamo infine l'aggettivo female, che significa di sesso femminile, mentre male indica il sesso maschile. Two of the candidates must be female. Due dei candidati devono essere donne. Ugualmente si parla di female artist, student, employer o employee, e come in italiano c'è la female plug, la presa elettrica femmina. A male nominated profession è una professione dominata dalla presenza maschile. All the terrorists were male, aged between 25 and 30. Tutti i terroristi erano uomini di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Male attitudes towards female are often questionable. Gli atteggiamenti degli uomini verso le donne sono spesso discutibili. La male plug, Sava Sandir, è la presa maschio. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.